gennaio bianco e forte, intanto s'affacciava con lo spumante e l'orologio in mano, coi botti che fischiavano da qualche settimana, mia figlia che aspettava la Befana. Passa l'epifania, diventa storia vecchia, qualcuno già si maschera e si specchia, e c'è chi non si trucca perché ha la faccia bella e per la strada incontri Pulcinella. E i vecchi che si litigano il sole, che si concede a spicchi e all'improvviso, in fila col cervello alla pensione, e a volte puoi strappargli anche un sorriso. Passato per le cliniche, i medici bulloni, che ancora grandi giocano ai dottori, fa primavera a mare, col vento e gli acquazzoni, si chiama marzo e stuzzica gli amori. Lo vedi da lontano, frizzante e ballerino, con la maglietta corta e un fiore in mano, coi prati che si riempiono, copiati dai pittori, e viva aprile, figlio dei colori. E i vecchi che si invecchiano a casette, di vino falso e di rassegnazioni, mani tremanti messe ormai alle strette, e un giorno ci ammazzavano i leoni. Mangio con la Madonna e le ferie anticipate, da chi sente nell'aria un po' d'estate, dall'altra parte nevica come ieri mattina, coprendo i morti dell'isola argentina. Si trovano i costumi specchiandosi di lato, qualcuno è rosso e al mare già c'è stato. A giugno sulla spiaggia io cerco un pilone e cerco i versi giusti a una canzone. E i vecchi che diventano un problema, quest'altro mese dove li mandiamo? Ma è delicato e non sai cosa dirgli, e un giorno siamo stati i loro figli. Sono pieni ormai le spiagge da Rimini a Tropea, eppure dove un giorno sbarcò Enea. Sono pieni di turisti, di donne, di bambini, e viva luglio, il mese dei bagnini. S'affaccia all'orizzonte la prima nube strana, e agosto già da qualche settimana. Si scambiano il telefono, l'io degli innamorati, le ragazzine e i prossimi soldati. E i vecchi che ci guardano finire, le ferie ai monti, al mare o alla collina, ci guardano e a me sembra vogliano dire, per noi è finita tanto tempo prima. Delle vergini confuse e sfortunate, delle ultime magnifiche giornate, è tempo di tornare a fabbricare soldi e a vivere di nuovo quei ricordi. Settembre è andato e lascia timidi colmi d'uva, poeti nuovi e nuove facce a scuola. Vorrei tornare a vivere la puzza di quegli anni, purtroppo capita una volta sola. E i vecchi che non trovano parole e lasciano i discorsi all'imbrunire, fanno ritorno a casa se Dio vuole, eppure chissà quanto hanno da dire. Si portano montagne di fiori e di lumini, la gente si ricorda che si muore, tra i camposanti e l'anima al lume dei cirini, due lacrime sputate con il cuore. Natale ormai alle porte, si cerca di invitare per il cenone per poter brindare. Con lo stipendio doppio, volato in allegria, insieme all'anno vecchio è andato via. E i vecchi che ci guardano stupiti, come per dire che è soltanto un gioco, la guerra esaudi e tutti i suoi soldati, che in fondo durano tanto tanto poco, e i letti che ci guardano incantati, come per dire l'ho già fatto io. E quando i giorni belli son finiti, di nuovo tutti, tutti in bacio a Dio.